Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti. Cominciamo questa sera con una nuova stagione di presentazioni, incontri, conferenze. Ne abbiamo in programma moltissime e vi ricordo solo le prossime due di questa settimana. Giovedì alle 18 una conferenza tenuta da Francesco Palermo dedicata al futuro e l'autonomia. E venerdì alle 17.30 invece una serata in ricordo di Umberto Gandini. Saranno presenti Leonardo Gandini e Fabio Zamboni che modererà la discussione. E stasera siamo molto contenti di ospitare Claudio Betz che ci divertirà con le sue vignette. Lui è presidente dell'Associazione Culturale Biblioteche Piani, quindi è un collega, sì. E moderatrice Michelotto Marina, Marinella, mai Marina sempre preferisce. Io sì, comunque esatto, bene, quindi ci sarà uno scambio tra di loro di battute, di impressioni, e siamo qui ad ascoltare molto volentieri. Grazie mille. Grazie. Beh, allora un benvenuto da parte dell'Associazione Scrittori. Doveva esserci presidente, ma forse ha avuto qualche problema di traffico probabilmente a quest'ora. Bene, questa sera presentiamo, presento lui ovviamente, principalmente il primo libro di Claudio, Come quando fuori c'è il Covid, e poi di conseguenza anche il secondo, che è il figlio del primo praticamente. E ne parleremo anche di questo. Allora, e con Claudio ci conosciamo penso da 30 anni, giusto? Ecco. Per cui ho avuto modo di comprendere, di apprezzare il suo modo di essere ironico, anche umorista, il suo modo proprio di vedere la vita e poi di reinterpretarla a modo suo con il disegno. E, diciamo che tu hai svolto un lavoro che non era molto creativo, giusto? Come lavoro principale, no? Sì, certo, sì, sì. Ecco. Facevo il capotreno sui treni, quello che controllano i biglietti. Era un po' più stressante, però aveva il suo perché anche quello, insomma. Certo. Ero contento, eh? Però, insomma, dai, cominciamo un po' dall'inizio. Quando è nata questa passione per il disegno? Allora, quello che volevo dire è che io non sono nato imparato. Nel senso che non è che come Giotto che ha fatto la O e che quindi, insomma, mi manca che bravo. Assolutamente no. Io vi faccio vedere questa foto. Praticamente, io sono quello piccolino, col topolino, quello era mio cugino, ed estate andavo su da lui per un mese e lui, che era appassionato di Tex, queste robe qua, e allora lui disegnava questi fumetti di cowboy e naturalmente da buon bambino anch'io mi sono messo a disegnare, e questo qui è il primo che ho fatto, ce l'ho ancora, vedete che proprio, che forte. No, non è che sia proprio diciamo un disegno splendido, però insomma mi sono iniziato a appassionare appunto a fare questi disegni, e dico la verità, andando avanti con gli anni speravo anche di farlo proprio come mestiere, ma principalmente perché non avevo nessun collegamento, allora non è come adesso con internet che uno va, sono scuole magari, e quindi non ho assolutamente potuto, ma neanche avevo la grinta per arrivare a fare il disegnatore. Però col tempo, in fin dei conti, mi sono detto adesso non è male sta cosa, perché sarebbe sempre stato un lavoro, quindi c'è anche rottura di scatole. Mentre adesso è puro divertimento, io vi dico la verità che è un hobby veramente di divertimento. E quindi io ho cominciato facendo tutti i disegni, pian piano non ho imparato da nessuno a disegnare, quindi ho le mie pecche, quelle sono rimaste. Però a forza di fare come tutte le cose, vengono fuori, insomma, no? Cioè, impari piano piano. Quindi hai fatto qualche corso particolare? No, corsi di disegno niente, poi andando avanti ovviamente avevo qualche ambizione anche di fare il pittore. E allora ho fatto qualche corso di pittura d'olio, sono entrato nel gruppo Amici dell'Arte, c'è qui l'ex presidente mio dei Masetti che era presidente del gruppo Amici dell'Arte, lì ho fatto delle mostre e vi dirò la verità, adesso ne sto facendo uno a casa, chiaramente lo devo fare in fretta perché c'è... E con l'olio, questo quadro grande proprio, si vede che non è... faccio una fatica bestia perché ormai mi sono concentrato su queste cose, non queste, ho quelle che vedrete dopo, insomma, diciamo così. Quindi c'ho un po' di pittura a olio, un po' di acquarello, un po', ma non così. Però hai lavorato per tanto tempo per il segno, giusto? Sì, per 10 anni ho fatto le vignette al segno, il segno era, è ancora, ma allora era proprio cartaceo, veniva distribuito su abbonamento. Ho fatto un disegno settimanale al giornale Il Segno. Adesso vi faccio vedere qualcosina. Allora, innanzitutto volevo dirvi, io faccio caricatura, ad esempio questa qua, vedete? Questa è una mia collega di pittura, molto brava a disegnare il mare. Allora io l'ho fatto come se fosse in mezzo al mare, che tiene, in fondo c'è proprio il mare, no? Quindi è il top. E vedete il granchietto sotto che gli passa il colore perché dà un tocco. Questo naturalmente è fatto china e acquarello su carta, mentre questo qui è fatto al computer. Al computer cosa vuol dire? Che il disegno è sempre fatto con la tavola che poi vi farò vedere, però la colorazione viene fatta più facile. Questa era la copertina di un disco amatoriale della, si intitolava La Torpedo Blu, infatti c'è La Torpedo Blu, vedete. E quando ero al segno che ho fatto tutte queste vignette, vi faccio vedere solo una, che è questa, il finale mondiale del 2014, c'era Argentina contro Germania, ha vinto Germania 1-0, ho immaginato i due papi, uno un po' e quell'altro che esulta, cose che non so se il Ratzinger fosse così. Oltre a questi, diciamo, poi ho fatto anche altri, insomma, nello sport, questo che si intitola La Pompa, è del 2007 e allora si parlava molto del doping nel ciclismo, quindi vedete, non occorre dire tante parole, il bello del vignette è questo. Poi naturalmente fate qualcuno su Bolzano, forse voi non siete mai passati a quell'ora, perché se passate a quell'ora in Piazza Walter, vedrete che Walter non è in piedi, ma si siede per riposare un po', perché... Ma questo succede raramente, se uno passa al momento giusto come ho fatto io e lo trova. Anche gli animaletti sotto dormono, non so se li vedete. Se invece andate in Piazza Stazione, che c'è la Fontana delle Rale in estate, sono tutte là che se la spassano, vedete che anche loro insomma se la spassano. Poi noi siamo conosciuti, soprattutto qui a Bolzano, tra le altre cose, perché siamo stati i primi a fare in Italia il mercatino di Natale, che in tedesco è Christkindlmarkt, il mercatino di Gesù Bambino. Allora, naturalmente ho fatto anch'io questa qua, ecco qua, e qua vedete Gesù Bambino che se ne va via, un po' inalberato, insieme al bue e l'asinello, dal mercatino che è solo il nome, il suo resto non è che è vero, non abbia molto a che fare. Ecco, solo per farvi un'infarinatura di quello che sono nel tempo stati i miei disegni. E adesso iniziamo a parlare un po' del libro. Sì, praticamente arriviamo al 2020, esatto. In pensione. Sì. Quindi con la possibilità di dedicarti a certo. Tempo pieno, visita le città d'arte, scappinate in montagna, insomma tanti disegnini, però purtroppo è arrivata anche la pandemia e il primo lockdown che è stato penso è stato brutto per tutti, non eravamo assolutamente preparati. E come abbiamo reagito? Chi ha messo in ordine soffitto cantina, cassetti d'armadi, chi ha fatto pane, torte, pizza, tutti i lievitati del mondo, ecco, e chi invece ha inforcato la matita e ha cominciato a fare una vignetta, precisamente una vignetta al giorno. Sì, sì. È cominciata così, avevo da poco acquistato questa tavola grafica che poi faccio vedere come funziona e anche un programma splendido, allora ho iniziato a provare a vedere e naturalmente se non ci fossero i social non saremmo neanche qua, perché ovviamente fai un libro, invece con i social lo mandi fuori, nel disegno, un disegno al giorno è facile, riesci a trovare tutti, da WhatsApp, Facebook, TikTok no perché sono troppo vecchio, ma il resto insomma ci sono. Ecco. Allora ho iniziato, ho fatto la prima vignetta che praticamente era questa qua, vedete, che ci dicevano che noi dovevamo stare chiusi in casa perché il virus era fuori e ce la saremmo cavata. Allora ho fatto il tipo, no, che gli fa la pernacchia e fuori c'è il virus che lo sta guardando. Ho iniziato a fare la prima, ho avuto qualche riscontro da gente che mi ha detto ah sì, carina, così e colà. Allora poi piano piano, i primi giorni un po' meno, ma dopo ho iniziato veramente uno al giorno. Vi faccio vedere alcuno, ovviamente, non tutti perché sono nel libro se qualcuno lo vuole. Questo è l'autocertificazione vivente, se vi ricordate avevamo bisogno dell'autocertificazione, ma chi aveva il cane poteva andare fuori. In automatico allora l'autocertificazione vivente è proprio qua. Poi qui tratta un altro argomento, l'ora di coda al supermercato che si doveva fare. In mezzo ho messo questo anziano perché lui andava a fare lo stesso tutti i giorni, anche se non doveva comprare roba, al supermercato perché almeno aveva compagnia. Cioè il problema degli anziani, quelli soli, a maggior ragione in questo periodo qua, era ancora più drammatica. Allora ho immaginato questa scena. Poi in alto Adige, che siamo sempre più bravi degli altri, vedete l'assessore Wittmann che aveva detto che con lo scaldacollo potevamo anche usarlo come mascherina, vedete? Era la soluzione del Citirol qua. All'inizio, ovviamente all'inizio non sapevamo bene com'era, insomma si andava per tentativi. Un problema grosso era anche per i genitori che avevano i bambini in casa. Ecco, quindi ho messo tanti bambini, non è che famiglie ne hanno così tanti. Però, insomma, il problema c'era e capisco ben che essere da soli non era bello, ma neanche stare a casa tutto il giorno così, con tutti quei bambini che ovviamente... Poi adesso c'è un'altra, questa qui è filosofica questa, l'uomo che si crede così importante, così padrone del mondo, della terra, vedete che basta un piccolo virus che gli fa bu e subito spaventa. Questa qui scrive un po', ogni tanto mi venivano queste cose filosofiche. E poi come aveva accennato lei, a fare il pane, no? Ad Algisa forse per oggi bastano, perché questa qua continuava a fare pane, no? Vedete il marito un po'... A dire la verità, questo mi ha ispirato, non so se vi ricordate il film di Fantozzi, quando la signora Pina aveva quell'infatuazione verso il panettiere e lui non capiva come mai, chi poteva essere, che c'era pane da tutte le parti. Un'altra cosa di quei tempi era che l'attività motoria era permessa solo 200 metri. Vedete qua, nonostante tutto, il vermetto sotto che guarda. Poi viene Pasqua e viene Pasquetta, il salto, no? Questa è Pasquetta, la gita fuori porta. E qui, adesso poi riguardando, mi viene anche in mente. Vedete che ho fatto il bambino che guarda il papà con un po' di sufficienza, ma la bambina, lei guarda nella sua innocenza il papà perché è piccola e insomma l'amore del papà. Poi da un punto di vista diciamo economico il prezzo del petrolio era talmente calato che va sotto zero, cosa fai? Lo rimetto a posto. È un dramma soprattutto per le donne, quei tempi era questo, la ricrescita. Mentre vedete l'uomo dietro, là, con i capelli per aria, tutto il suo splendore, e lei invece non ce la fa, soffre in maniera esponenziale. E questa qui, quando hanno riaperto le chiese, chi è entrato in chiesa non trova più l'acqua santiera, dove c'era l'acqua benedetta, ma il contenitore. E questa vignetta mi hanno raccontato, non so poi se è tutto vero, ma comunque in una parrocchia di Bologna l'hanno proprio stampata e l'hanno messa, che forza. L'hanno messa attaccata fuori, è stata una cosa carina. Poi dopo, con le vacanze che cominciavano, si poteva sì andare al mare, ma anche al mare in acqua bisognava stare distanti, a meno che tu non fossi un congiunto. Allora qui ho fatto il bagnino che va a dire: ma siete congiunti voi due? Col primo luglio poi c'è stato il buono vacanze che andava agli italiani, hanno messo questi due barboni doc che dicono: allora dove vai di bello? Ma non ho ancora deciso. Come se fosse, forse era importante, ma boh, non lo so. E poi, vedete questo Prêt-à-porter mascherine estate 2020. Non so se vi ricordate, ma le mascherine non se le metteva dove voleva, chi alla spalla, chi il mento, chi l'orecchio, chi sulla bocca solo. E l'ultimo che non sapevo cosa mettere, sinceramente, quando l'ho fatto ho detto: ma questo è il negazionista, se mette sugli occhi in modo che non vede. E vedete, l'ultimo è il modello negazionista. Poi andando avanti, sempre nell'estate, è iniziata la scuola materna, sono i bambini piccoli, che loro potevano andare senza mascherina, ma le maestre sì. Allora questo bambino chiede: ma è la stessa dell'anno scorso? Perché non sa più se era la stessa. E poi il problema delle mascherine fuori casa, in casa non era necessario usare, però in qualche occasione, forse qualche volta, mascherina è utile anche in casa, sta dicendo questa signora. Perché poi funzionava così nelle, di fare queste vignette. Io tutte le sere dovevo andare a guardare su internet, no, le varie agenzie, le notizie che mettevano. E c'era la notizia e io dovevo cercare una notizia che andasse bene, che potessi commentare io con qualche disegno un po' ironico, insomma, così. E poi ora che la pensavo, la facevo, e dopo, siccome questa non è molto curata, ma certe sono anche curate, insomma, bianco, nero, grigio, quindi era anche un lavoro un po' lungo, quindi è stata veramente fatica. Poi c'è avuto il periodo che chi faceva jogging poteva andare senza mascherina, gli altri no. Allora ho immaginato questi due che vanno alla funzione religiosa della loro religione, si sa qual è, vedete? La domenica, che si sono dimenticate le mascherine, allora gli sto dicendo: corri Pina, abbiamo dimenticato le mascherine a casa. Perché il poliziotto sta guardando, se no gli dava la multa se non facevano vedere che facevano jogging. E poi è arrivata la seconda ondata. Questa è la seconda ondata, vedete? Nonostante i negazionisti che non è vero, ma comunque stava arrivando. E questa è l'ultima, praticamente l'ultima, la quarta di copertina del libro, perché io in teoria pensavo uno a posto, invece si andava avanti, perché la questione non è risolta adesso, figuriamoci allora, no? Quindi io praticamente da marzo fino al 31 ottobre ho fatto sempre vignette. Poi dopo devo pensare anche al business, siccome d'estate mi avevano detto: perché non le raccogli in un libro? Io non ho esperienza di queste cose qua, perché non l'ho mai fatto. Allora ho detto: ma sì, dai, do da fare per cercare come vuoi pubblicarle, cosa fare. E naturalmente per fare il business bisogna averli per Natale i libri, perché altrimenti la gente è... Allora l'ho fatto apposta, finito appunto il con la fine di ottobre, con l'ultima vignetta, e l'ho mandata via per la stampa. E poi dopo ho iniziato subito a pensare al seguito. Vedo che sei stato preveggente, che hai messo anche il russo. Sì, sì, io tutte le andava tutto il mondo, quindi... Era l'altra pandemia che sarebbe venuta dopo, più grave. Esatto, comunque pensate che nel libro ho fatto un errore di lingua, invertito in tedesco. No. Una vergogna, quando mio figlio ha guardato e fa: ma papà, hai sbagliato in tutte le lingue, magari quelle altre chissà quanti errori ci sono, ma insomma, dai, siamo a posto. E questa è la copertina del secondo, che insomma sembrava, da come ci dicevano, che l'arrivo dei vaccini avesse risolto il problema, l'ha risolto anche, però. E quindi l'ho immaginato, insomma, che... E se vedete il modo della scritta, l'ho copiato dal secondo tragico libro di Fantozzi, che l'ha fatto proprio così, non mi piaceva, e abbiamo fatto questa immagine. Tu hai già risposto almeno a 3 domande che volevo fare. Porca miseria. Ma hai falle vedere prima, perché poi vedi. Sì, hai già detto perché, cioè non hai mai pubblicato niente di tutto il lavoro precedente, però di questo sì. Sì, perché ho avuto riscontro di persone, mi ricordo, avevano sotto i portici un sabato, ci potevo uscire uno dei primi e mi hanno detto, ma perché non li metti tutti insieme? Come dico, io non ho esperienza di pubblicare libri e così e colà, non sapevo neanche come muovermi. A parte che insomma, poi ho trovato proprio su Facebook, se è possibile, una casa editrice che insomma, bene o male, mi faceva capire quanto costava il tutto e com'era la questione, e l'ho fatta, e mi è andata bene, col primo mi è andata bene, col secondo un po' meno, ma vi dirò dopo. E quindi volevo fare, per esempio, ci tenevo a fare la carta che fosse proprio carta da libro, perché io ho visto ce ne sono tante anche con la carta lucida, bianca, così. Mi piaceva, mi aveva l'idea di farla colore avorio, un po' così, no? Così, che mi dava più l'impressione del libro, anche se libro, non so. Comunque è stata una cosa, dai. Nel mio piccolo, ovviamente, più si va avanti, più si cerca di migliorare o di cambiare qualcosa, ma il secondo l'ho fatto sulla falsa riga del primo. Quante sono le vignette? Il numero te lo ricordi? Il numero non me lo ricordo più, ma erano tante perché... trovare ispirazione per 80 vignette, sì, soprattutto farle una al giorno e dico soprattutto col secondo, perché col secondo ho ripreso di nuovo dal primo di novembre fino a febbraio. A febbraio ero un uomo distrutto, proprio non ce la facevo più, a parte l'argomento, no? Che insomma, bene o male, poi io non ho trattato solo il Covid, anche il resto delle cose, no? Mi fa qualche notizia per metterne una al giorno, però da un punto di vista anche mentale e di impegno era abbastanza dura la cosa. La cosa divertente era che se io la mattina per le 10 non avevo mandato il disegno, qualcuno mi massaggiava e diceva, ma oggi niente, e quindi ero, mi sentivo anche, avevo lo stress da, quindi avevo questo stress da prestazione. E comunque poi ho cominciato e sono andato avanti. Faccio vedere questi. Sì, ce n'è qualcuna che preferisci, diciamo, quella che cioè, beh, questa proprio mi è riuscita bene. No, ovviamente sono ci sono tutte... quelle meglio, però adesso, siccome è passato un po' di tempo, non mi ricordo più, a dire la verità, quale. Poi quelle, ci sono quelle che, diciamo, tra quelle che ho pubblicato, ho messo qua in questa presentazione, sono quelle abbastanza, insomma, carina. Ma ci sono, non so, c'è quella di Natale che farò vedere dopo, qualcun'altra che è anche curata da un punto di vista, perché a me sì piace, ma piace anche il disegno. Infatti io acquisto anche fumetti o anche altre cose, ma deve essere disegnato bene, altrimenti non, insomma, ciò sta fissa un pochettino, cioè bene, ci sono tanti modi di disegnare, no? Anche strano, però a me insomma piace questo metodo qua, per cui non saprei dirti se ci sono uno che mi piace più di me. Quindi c'è qualche vignetta che pam viene subito. Ma c'erano quelle che poi io mi succedeva che magari le facevo la sera in bastino, poi la mattina dopo mi alzavo, andavo subito a vedere, a riguardarmela, a vedere se. Ma che bravo che sono! Dei momenti, ci sono dei momenti anche che mi sono autoesaltato e anche ci sono state delle polemiche. Sì, è impossibile perché io, dico la verità, non faccio mai vignette cattive, perché proprio nella mia indole sono capace anche a litigare, faccio fatica. Quindi per me è la parola giusta da rispondere quando è ora, purtroppo. E quindi adesso finito. No, ci sono state polemiche. Allora ho disegnato, quando si poteva di nuovo andare in montagna, ho disegnato delle persone che vanno in montagna e gli animali nascosti, non so, due cervi nascosti dietro un cespuglio che commentano e dicono. Sono tornati i rompiballe. Allora, io mi ho detto questo dal punto di vista degli animali, perché bisogna anche sentire anche il loro punto di vista, ok? Allora mi scrive una signora del. I miei genitori sono della provincia di Belluno, un paese di montagna. E allora lì c'è un po' di diatriba tra quelli del posto, quelli del paese, e quelli che hanno le seconde case, che vengono da Venezia e tutti gli altri così. Ma io queste cose non c'entro assolutamente niente. Io pubblico questa vignetta, questa signora, non so di dove è, di Venezia, così, legge e dice, beh, ma non siamo mica solamente noi, siete anche voi che andate in montagna. Come se fosse un'accusa da parte di quelli del paese contro questi qua. Che poi io ho detto, allora ho scritto, guarda che io abito a Bolzano, sono andato a Bolzano, vivo qua, e poi probabilmente ho detto, vado più in montagna io di te, perché sta qua andrà ogni tanto, io vado spesso, quindi sono più rompiballe io che non... Eppure questa qua mi ha tolto, no, l'amicizia ancora non ho preso, però proprio dopo non si è più fatta sentire, mi diceva che è bello. Perché bisogna stare attenti, per sapete meglio di me, quando si scrive qualcosa, anche io tante volte i testi, sto là a pensare tante volte, perché bisogna sempre pensare che chi le legge poi, come facciamo noi, interpretiamo anche, no? E quindi dice, oh, guarda, ho fatto così, oh, guarda, guarda così. E siccome viviamo nella polemica perenne, è proprio... Quindi, attento anche ai testi. Sì, bisogna curare i particolari. Se mi faccio vedere qualcuno del secondo libro. Certo. Allora arriva Bolzano, zona rossa. Allora, vedete dietro c'è una piazza Walter, anche lì era una fotografia... al computer riesce un pochettino a modificarla, che sembra disegnata. Palmiro, temo ci sia un malinteso. Perché? Poi invece qui una constatazione, non so se avete anche voi, vi siete accorti, quando si andava in giro si vedeva attaccato. Una volta qualcuno aveva attaccato i rosari, ma adesso invece vedete questa mascherina che penzolava, eh? Il segno dei tempi. Questa invece, che è scritto Natale 2020, però è stata tutta la stagione, che è stata bloccata e non si è potuto andare a sciare per tutta la stagione. Vedete che un disegno così già racconta tutto, no? Poi dopo andiamo verso Natale, prima di Natale, c'erano tutte le regole per vedere come comportarsi. Ovviamente, sapete, a Natale c'è la messa di mezzanotte, ma il ministro ha detto non si può fare perché è troppo tardi. Allora ho immaginato il ministro Boccia davanti a tutti quelli del presepe che gli dice, allora quest'anno Gesù nasce 2 ore prima. Non vedete, ma la Madonna è ancora incinta. Vuol dire, questo è particolare. Poi dopo, quando si arriva verso Natale, quali erano i discorsi che si facevano prima della pandemia? Cosa fai? Ma cosa fai a Natale? Cosa fai a Natale? Queste due coppie che si trovano, cosa fate di bello quest'anno a Natale? Ci facciamo il tampone. Perché era venuto fuori la questione che per qualsiasi cosa dovrebbe aver fatto il tampone così. E poi notate anche come si salutano. La gomitata. Gomitata. Poi finalmente viene la notte di Natale. Ecco, vedete? L'anno scorso mi pareva diverso, dice questo bambino, perché vedete tutti con la mascherina lì, no? Per Natale gli faceva paura. Poi verso la fine dell'anno comincia finalmente sto vaccino, no? Non so se vi ricordate, ma veniva dall'Olanda, non so da dove veniva, e quindi sembrava che arrivasse veramente, cioè, con i carabinieri pronti tutti quanti, no? Vedete, tutto in tensione, sembrava adesso te lo tirano dietro, no? Ma allora era una cosa drammatica. Poi inizia l'anno nuovo e ho fatto questa vignetta. Questa è la Brexit. Notate che c'è l'Inghilterra che va via, mentre la Scozia e l'Irlanda del Nord non volevano andare via. E secondo me questa, nel suo piccolo, è carina, secondo me. Poi passiamo anche alla politica, proprio alla politica nazionale. Una cosa che mi aveva colpito è proprio questo. Renzi ritira le ministre e apre la crisi. Il fatto che mi aveva colpito il fatto che Renzi proprio ritirava le, come se fosse un oggetto, cioè non erano due persone pensanti, erano due suoi pacchi che aveva messo là. Poi tornando all'Alto Adige, tutti dicevano che eravamo rossi, però noi no. Allora vedete il nostro presidente che ha dipinto di giallo tutto lo stemma, no? Perché l'Alto Adige si sente giallo, e noi ci sentavamo gialli. Poi andiamo verso la polemica sul Sanremo, i figuranti sì, i figuranti no, anche quello era un problema grosso. qui ho fatto allora due virus che dicono se vuoi veniamo noi. Vedete che c'è Amadeus, no, che sta guardando così. Poi andando ancora avanti col tempo, Draghi diventa il nostro ministro. Allora, consenso unanime nel mondo per Draghi, e lo spread cala. Allora anche i draghi del mondo sono così felici che c'hanno un Draghi che, insomma, vedete che sono tutti contenti davanti alla televisione per Draghi. Poi viene San Valentino, ho immaginato questa, vedete, così l'ho messa così. Poi andiamo avanti e qui abbiamo gli esperti. Dottor Totale, ognuno diceva la sua e noi non capivamo niente, no? Sì, no, sì, colori, facciamo tutto questo. Finché arriva l'esercito, vedete, scattare, nuovo piano vaccini, l'esercito in campo. Invece che il fucile è messo la siringa, che così. Ancora un'altra, vaccino AstraZeneca sospeso. Basta, sei sospeso, torna accompagnato dai tuoi creatori, come a scuola, vedete. Poi andiamo a scuola, è anche qui una polemica, per i test nasali fai da te, sostituirli dei bambini. Allora la maestra gli dice, in fondo non dovrebbe essere così difficile, invece che il dito, metti questo nel naso. Forte, eh? Forte. Poi dopo arriva il nuovo vaccino, Johnson & Johnson, e ovviamente sta signora va al supermercato, dice i detersivi, là i scianti, dice, allora dove lo avete messo? Qui poi il pass che era sogno di tutti quanti, noi pensavamo tutti, volevamo tutti avere il pass per poter andare finalmente in vacanza, no? Era il sogno veramente di tutti. Ancora la polemica grossa che poi è venuta dopo, anche per problemi di lavoro e così, non c'era. Io ero convinto che fossero tutti contenti, invece non era vero. Poi riaprono i musei, ah che bello, riaprono i musei e si dice, ero stufo di giocare a battere con Guardiani. Finalmente anche lui. E dopo ci tolgono le mascherine, basta mascherine all'aperto, ma la variante Delta preoccupa, vedete che c'è col Delta tutto in testa. Poi dopo Draghi che dice, no Green Pass, no party, comincia la sofferenza. Ecco, diciamo che dopo andando avanti ne ho fatte sempre di meno, soprattutto d'estate, perché la polemica, la contrapposizione tra i Vax e i Novax è arrivato a punti veramente estremi di cose. E io sinceramente, se io dovevo contribuire a rendere ancora peggio, non era proprio il mio caso, allora veramente ne ho fatte molte di meno e cercavo di non andare proprio a anche perché un Novax sicuro non cambia idea per la mia vignetta, un Sivax non cambia idea per quello di... era inutile che mi mettessi lì a... almeno non volevo, anche perché le mie vignette, spero che siano servite, così mi hanno anche detto, per alleggerire anche tutto il primo periodo e così, perché veniva sta vignetta, come si faceva una risatina e finiva là. Comunque poi ci abbiamo avuto un'estate sportiva molto soddisfacente, qui abbiamo il portiere Donnarumma e il para, vedete, poi abbiamo Michael Jacobs che fa i 100 metri con la medaglia, poi quell'altro che fa il salto in alto, e poi adesso ce ne sono un paio sulle fake news. Dicevano, no, che i vaccini modificano il DNA umano, e dice, io ci credo, da quando mia moglie si è vaccinata è diventata più rompiballe di prima. E poi ecco, questa qui un po', sì, no, vax di solito non è che erano tanti in città, ma fuori, anche i campagnoli, quelli che, no, io non mi faccio iniettare quel veleno, questo c'è l'atomizzatore che sta buttando il veleno sulla frutta che poi non ci mangeremo felici e contenti. Poi questa è l'ultima, quella del 31 ottobre, dolcetto e scherzetto, perché appunto aumentano i contagi in Italia e si ricominciava di nuovo. E allora dice, come dice, è pronta la terza dose, perché si prova, vedete, poi ci sono i due virus, dolcetto e scherzetto. E sulla quarta di copertina avevo messo questa, che insomma ancora non è finito, è così. Questo è il secondo libro. Poi ve ne faccio vedere anche alcune che ho fatto dopo, giusto per farvi vedere. questo secondo libro vi avevo detto che da un punto di vista del business non mi è andato così bene. Premetto che il business era l'ultimo pensiero che avevo. Però avevo fatto tutto in modo, il 31 ottobre finiva, mandavo, e per dicembre, per Natale ero pronto con i libri. Non è arrivata la carta alla casa editrice, mi è arrivato in febbraio e mi è crollato il mese. È andata così. È stata così drammatica. Ve ne faccio vedere solo alcune. Questa che basta, dicevano finalmente non abbiamo più bisogno delle mascherine, ma in quel momento i giornali scrivevano che l'aria era inquinata. Che proprio, eh? Poi dopo il nostro presidente che ritorna al Quirinale, che lui voleva andare via, ma vedete che c'è Conte che porta i pedalini, Letta e quella, ecco, insomma, dai, ritorno al Quirinale, per questa di carnevale, due bambini, non mi pare che la mascherina vada così, perché insomma, due bambini. Poi viene la guerra in Ucraina, la cosa che all'inizio mi aveva colpito è questa di denazificare, ma io sono rimasto sorpreso di questa cosa qua, poi è andato avanti tutto il resto, ho fatto questa. E poi dopo, quando appunto è iniziata la guerra, non c'era più bisogno di virologi, ma di geopolitici, quindi esperti in geopolitica, infatti, vedi, è finito il tempo dei virologi, cara, ora tutti esperti in geopolitica, infatti c'è l'invasione anche di qui. Poi dopo comincia la campagna elettorale, è l'ultima questa qui, quante robe si potrebbero scrivere, ma tra le cose che mi hanno colpito all'inizio era questa. La Gina Lollobrigida, perché una di 95 anni che si candida veramente, voglio dire, ma anche il partito che la candida, eh? Allora se vi ricordate la Gina aveva fatto il film Pane, Amore, Fantasia, e l'ho fatto Pane, Amore, Politica, è tornata la bersagliera che nel film si chiamava così, con l'asino che era Baro, ecco. E quindi l'ho immaginata così. Adesso poveretta si è rotta una gamba, speriamo ben, perché è un'opera, speriamo ben poveretta. E questa è l'ultima che vi faccio vedere, niente, fine di cose. Allora, io prima ho parlato che Claudio ha inforcato la matita, però in effetti usa tecniche diverse anche per... Sì, adesso vi faccio vedere come faccio un disegno, una vignettina, Allora c'ho la penna, vedete che è la penna, c'ho la tavola grafica, adesso qua me la metto qua, l'accendo, un attimino che arrivo, ecco, spengo questo, faccio vedere qua. Questo è il programma di Clip Studio Paint, che è veramente un programma che usano i fumettisti nel mondo, l'hanno inventato i giapponesi, sapete che lo fanno in manga, tutte queste cose qua, e quindi vi faccio vedere un po' così per curiosità come funziona. Vedete, ho fatto uno schizzo a casa di uno che sta leggendo un libro su una poltrona. Allora nella prima c'è, se vedete, c'è un foglio bianco e sopra un altro foglio che sarebbe questo qui, c'è il foglio bianco come se mettessi un altro foglio sopra trasparente e lì ci posso disegnare, io ho la matita, vediamo, sì, adesso è a posto, allora posso, questo è la gomma, va bene, la matita, vedete, io posso fare così, non so, cambiare il naso, aumentare gli occhi e così. Quando ho fatto questo, ho fatto lo schizzo, però non posso usare questo, allora aggiungo un foglio, vedete che c'è un altro foglio di là, e qui, abbasso un po' questo qua, e qui adesso non farò tutto perché sennò perdiamo troppo tempo, ingrandiamo un po', vedete, e io parto con il nero, magari metto una penna un po' più grossa, qua. Allora io comincio e faccio il disegno, faccio... Adesso non mi viene da farlo bene, ovviamente, no? Gli occhiali, l'occhio uno qua, un altro occhio qua, facciamo un po' di capelli, La bocca un po' così, che si vede che gli piace molto questo disegno. Qua va giù la spalla. Bisogna anche, qui c'è le mani, 1, 2, 3, 4 dita, vedete, qui c'è il libro. Si sta leggendo, vedete. Adesso non faccio tanta roba perché sennò stiamo qua troppo di annoiate. Qui c'è la poltrona, qua dietro. Se io tolgo... Non ho sbagliato. L'emozione, dovevo farlo qua, scusate, proprio non veniva bene. Faccio velocissimo, basta che parto qua, ecco, vedete che c'è il nero, non veniva il nero, non ho più partito. Sì, il problema è farlo schizzo. Sì, va bene. Così sembra facile, no? Mamma mia, tu mi fai tutti gli schizzi, datemi una tavola grafica che... Adesso faccio solo un pezzettino, facciamo il libro. L'importante è che siano chiusi i segni, perché altrimenti il colore deborda. Se io tolgo, mi rimane solamente il disegno. E io da questo allora, vedete qua bisogna chiudere, facciamo così che chiudiamo tutto, giusto per... Allora quando ho fatto questo qui, adesso io voglio colorare, metto un altro foglio sotto e uso i colori, faccio i colori base, non so, vogliamo fare la poltrona rossa che ci piace rossa, se io schiaccio, adesso vedi che colore è bordato. Accidenti, devo scoprire dov'è il punto, troppo il concetto, dovete capire, non è che serve, giusto, però che qui ci si piega diverso tempo. No, ci vuole tanto tempo. Il tuo disegno deve farlo bene, poi se sbaglio. La cosa divertente con questo programma è che se io seleziono ad esempio questo libro qua e dico ma sto qua, aspetta che lo sposto un po', riesco a spostarlo. Bellissimo. Oppure se fai l'occhio un po' sbagliato lo puoi spostare direttamente senza dover star cancellare, fa così. Basta che selezioni la parte, lo puoi fare solo. Comunque prendi il colore, adesso faccio meglio che colore rosso, adesso faccio così in modo che si ecco. Quando ho fatto il colore rosso io poi ci metto un altro foglio sopra e magari faccio le ombre, vedete, allora io scurisco un po' il colore, prendo il pennello e quindi ci faccio, non so, l'ombra sotto qua o qua dietro, in modo che si veda che c'è l'ombra. Oppure se vogliamo metterci la luce, ci mettiamo anche la luce, mettiamo che qua c'è un po' di luce, vedete? Mi dà subito l'impressione, così. Ecco, vi ho fatto vedere, insomma, un pochettino, potrei far di più, ma... per darvi l'idea di come funziona. La cosa bella di questa è che se devi cancellare, o se, per esempio, questo rosso non mi piace più, e cosa faccio? Io posso benissimo prendere il verde e lo faccio sopra, capite? Quindi è molto più pratico a fare tutto quanto. Con questi qua ho fatto una serie di... se siete stufi andiamo via, non voglio tediarvi. Deciso così, no. Basta così. Mi è colto impreparata, basta così. Lo stavo guardando che ho fatto il prossimo weekend, qui sono orgoglioso, vado su al paese mio, insomma, dei miei genitori e vengono giù le mucche, fanno una grande festa. E allora avevo detto, se volete vi faccio caricature di tutti i malgari. di quelli della malga, vi faccio un disegno, l'ho salto in giro per le mandette, ma sì dai fallo, l'ho salto in giro per tutte le malghe, adesso vi faccio vedere solo qualcuno così, se non vi... Eccole qua, questo ad esempio è uno, vedete? Qui non ho fatto altro che utilizzare la foto, lavorarla un pochettino dietro e davanti ho messo il personaggio, il tipo che lì era andato in quella maga, lui non c'era, c'era la moglie, mi ha detto ah gli piace tanto tagliare gli alberi, facciamo che taglia gli alberi. Poi abbiamo quel bel cagnetto piccolino, ho messo il cagnetto, vedete? Pure questo qua è un altro, che questo qui gli dice alla mucca non fammi il muso, l'anno prossimo ti porto su nelle maglie, perché non potevo andare perché la maglia era chiusa, per dirmi insomma come si... Questa qua, che questa signora con le capre dice al caprone stai fermo, non so se voi vedete, ma il caprone, vedete che il caprone lì con la lingua fuori, che la capretta però ci sta. Agli occhi dolci. Agli occhi dolci, sì, ecco. E l'ultima è questa, qua è scritto in ladino, perché la mucca sta guardando male il padrone qua, no? Perché deve portare sto campanaccio, i fiori in testa, tutto qua, e dice, ma anche io ho i fiori in testa, però non mi lamento, no? Dice lui. Ecco. Per dirvi... Hai fatto un misto foto e... Sì, perché ad esempio qui c'era la foto solo della maiga, tutta questa erba che vedete sotto è taglia e incoglia, taglia e incoglia, metto insieme, modifico un pochettino e viene tutto questo. Perché è fatto proprio... Però la caricatura dei visi li fai tu. Sì, sì, no, io mi devo dare la foto della persona, io non sono capace a caricaturare bene, veramente come si deve fare. Però mi danno la foto della persona e io faccio... questo è uno degli ultimi che ho fatto per un matrimonio. Vedete, è sta coppia appassionati di Iron Man, contenti loro. E sono tutti e due che lavorano in ferrovia e vedete sotto c'è la stazione di Bolzano. Questa è un'immagine di Google Earth là, che io ho preso, modificato un po', ho messo di così e è venuta fuori. Quindi insomma, si fa queste cose. Allora, resta il fatto che bisogna saper disegnare. Certo. Perché anche se è una caricatura, se voi avete notato, la posizione delle mani, la proporzione delle proporzioni della figura umana ci devono essere, no? Quindi uno magari banalizza e dice ma sì, non è così, c'è dietro una capacità grandissima, oltre all'ironia che ha Claudio, che è veramente simpatica, diciamo, c'è una grande capacità di disegno. Lui non vuole fare il pittore solo perché si è appassionato lì, ma è in grado benissimo, lo dico io, di fare qualsiasi tipo di quadro. Infatti questo volevo chiederti, no? No, ma era una domanda, perché ho detto fai parte dell'associazione Amici dell'Arte, per cui ti sei cimentato non solamente con vignette, caricature, ma anche con cose un po' più... No, adesso sto facendo questo benedetto per... Faremo una mostra alla Civica su Pasolini. Tutti dobbiamo fare dei quadri enormi. E adesso sto facendo uno che c'è Totò e Ninetto Davoli. Ma proprio a mettere i colori non sono capace, è un'idea inutile, sto provando e mi trovo sempre con la situazione perché come tutte le cose, quando uno ne fa poche volte, io faccio un quadro all'anno quando serve. Quindi uno non ha la manualità come invece il signor Masetti ha, che è un professionista. Quindi è quello, ma invece queste cose qua, io dico non sono capace per catturare il volto, però una cosa che mi vanto è che metto le figure in posizione naturale, nel senso che so di metterla così, che non è quello sicuro, che mi viene in automatico quando faccio il disegnetto. Poi magari voi guardando la correggio un pochettino, ma si fa così. Claudio, sulla tecnica, no? Tu hai parti dallo schizzo, sì. E poi sovrapponi un foglio per fare i colori. È come se avessimo tanti fogli di acetato, quelli trasparenti che metti sopra. Le ombreggiature poi le hai fatte su. Sì. Perché non le puoi fare direttamente. Ma lo puoi fare, ma dopo se per caso sbagliano così, tu più li fai, meglio è se devi correggere o cambiare, altrimenti se tu rovini, diciamo, il disegno, il colore base, ci metti sopra quello, poi si mescolano e non va più bene, no? Infatti mi succede spesso che sbaglio, vado avanti, devo tornare indietro, per tornare indietro, recuperare, proprio questo motivo qua. E quindi ogni addirittura il fondo potrebbe essere uno, anche il disegno del fondo, il disegno che così puoi spostare, è tutto, però è un modo di questo programma in particolar modo, l'erba, c'è il pennello che ti fa l'erba, è una cosa bellissima, l'albero ci volendo ce l'ha, la prospettiva, addirittura c'è il programma che, cioè, dentro in questo programma c'è la prospettiva che può essere uno, due o tre punti, tu poi man mano che fai la riga vai in automatico in prospettiva. Cioè, sono, io lo so usare al 20% forse, no? Sì. Ma puoi fare tantissime cose. Ma che prima della... Prima di tutto ciò, allora... Della tavola grafica? Prima della tavola grafica facevo il disegno a mano. Allora, quando lavoravo, no? Magari dovevo controllare i biglietti, ma anche stavo sempre a controllare i biglietti, no? Si stava magari davanti col macchinista. E mi ricordo, andavo verso Brennero e mi veniva l'idea. Beh, cioè, mi prendo un pezzo di carta e facevo uno schizzo, e di solito questo schizzo sempre più bello del disegno finale, e poi dice adesso lo curo, ma era più bello. Dopo quello lì facevo il disegno, lo tiravo dentro con lo scanner e lo coloravo un pochettino, quello che avete visto dei papi è fatto così, lo coloravo con Photoshop, che anche lì non so usare, uso un pochettino, e usavo in quella maniera. Altrimenti, una volta cosa facevo? Prendevo la foto, devo fare la faccia, poi dopo fare un disegno, poi fatto, mi succede anche adesso, mi chiedono un disegno, lo faccio, allora sto là curo il particolare, arrivo alla fine, sbaglio l'occhio e tu devi fare tutto, magari c'è poco tempo, devi i nervi, no? Perché è una cosa che può succedere. Il bello di questo, ad esempio, come faccio adesso? Faccio il disegno sempre al computer, poi dopo lo trasferisco su carta, me lo stampo della dimensione giusta e poi lo metto su carta, poi ho la lavagna luminosa, insomma, mi metto sotto e poi vado. Questo mi facilita il compito in maniera esponenziale. Però ne fate anche alcuni dipinti e acquerelli? Sì, no, certamente. Quelli che faccio a mano poi, bianco e nero di solito, quelli che faccio di più, ma se non sono volacolori. Ne ho fatto uno recentemente a una signora, che una coppia che faceva i 50 anni di matrimonio. Questa qui mi ha chiesto proprio questo qua. Eccolo qua, 50 anni di matrimonio. Vedete? C'era questa signora che la madre, la figlia che mi ha contattato, prima aveva dato due foto impossibili. Più la foto è bella, più facile per me fare, perché se la foto è mezza sfocata, o magari quando aveva 27 anni, no, non è che, a parte non sono capace, ma non posso immaginarmi come potrebbe essere. Allora mi ha dato le foto decenti, allora adesso ho il pianoforte, lui è appassionato di pallacanestro, allora vedete, io faccio caricature così, che sono, cioè, fai 50 anni, non è che puoi fare una caricatura per prenderlo in giro più di tanto. Però l'ho fatto come appassionato del pallacanestro, vedete che c'è i pantaloncini corti e con le scarpette vintage di una volta. E la cosa bella di adesso è che se vai su internet trovi tutto. Perché se io dovevo andare a fare le scarpe vintage di pallacanestro, adesso vai su internet, trovi l'immagine, la scarichi, ti accoppi, bellissimo. È di una facilità estrema. Ecco. Però ti dà più soddisfazione un lavoro così? No, soddisfazione, diciamo per praticità, mi faccio più volentieri qua, ma tanta gente, alcuni lo vogliono cartaceo, perché cosa succede? Io faccio uno qua col PC, no? Poi come facciamo? Guarda, c'è gente che me lo chiede, io ho avuto gente anche dal Piemonte che mi ha chiesto disegni, io glielo mando. Dopo mi fanno il bonifico e finito, senza nessun problema. Invece faccio cartaceo, bisogna portarlo. Ma tanti vogliono, preferiscono, perché ha più un senso artistico fatto così che non fatto al computer. Anche se, vedete bene, c'è la penna, non è che... Solo che i colori sono meccanici lì, non sono come qua. Poi volendo, se uno è bravo, riesce a fare anche qua delle cose magnifiche. Io tante volte guardo su internet gente che lavora e c'è sempre degli abbassamenti di zucchero per vedere delle cose splendide, ma è possibile, riescono veramente a fare delle cose magnifiche. Dico, beh, faccio anch'io. No, non vedi. Quindi preferisco per comodità questo sistema. Ma se mi chiedono faccio anche questo, non c'è. Ma la cosa che forse più apprezzo di Claudio, che prima anche ha detto, è che sia nelle vignette che nelle caricature non è mai malevolo, non è mai caustico, è ironico, umoristico, addirittura anche gentile e delicato, soprattutto in quelle che raccontano magari la dipartita di qualche personaggio famoso. Ah sì, sì. Giusto, ecco che anche quelle. Infatti mi avevano chiesto, ma e della regina non hai fatto niente. Non mi veniva, se no ne ho fatti diversi su personaggi. Non so se no anche quest'anno, in modo qualcuno quest'anno in particolare. Sbaglio. La Monica Vitti. Ah, l'ho fatto sulla Monica, eccolo qua, guardate qui, Monica Vitti, questo. Sì. Sì. Polvere di stelle, che c'era Sordi e la Vitti, ho immaginato Sordi che va a prendere e se la porta su. Questo è fatto nella tavola. Sì, sì, questi qua che vedete tutti belli colorati, sono fatti tutti così. Sempre parlando di gente che non c'è più, l'anno scorso anche c'era qualcuno, no? Beh, quello che hanno messo sull'Alto Adige era bellissima. Quello non ce l'ho qui. Non ce l'ha. Ah sì, lo scrittore Sepulvedo, lì mi hanno messo addirittura sulla prima pagina dell'Alto Adige, io mi sono veramente. Scusate, queste sono tutte le vignette, quindi insomma sappiamo più pari cosa non ci interessa. Anche Aznavour era bellissimo. Ah sì, quella l'ho fatta, sì, quella l'ho fatta veramente solo come prima. No, ne ho fatte tante, però quelle un po', diciamo. C'era la, almeno, beh, qui era il decennale di Bob Marley. Sì. No, il decennale, il trentennale. Bob Marley. Il quarantennale. Quarantennale. Qui c'è Battiato. È vero. Perché abbiamo fatto Battiato a. C'è il concetto di gravità. Anche quella del. Questa è vivo, Bob Dylan, ma l'avevo già fatta, l'ho riproposta, no, faceva i 70 anni forse. Ecco la Carrà, ecco qua. Qui c'è la Carrà che fa tucca tucca con gli angioletti. Poi però adesso non ce l'ho qui, no, altri vostri non ce l'ho. Niente, scusate. E so che ho fatto James Bond, che c'è San Pietro, no? Che c'era? Sono Bond, James Bond, una cosa del genere, ce l'ho da qualche parte, adesso non vedo più, non ce l'ho. Insomma adesso. Niente, riguardando ogni tanto, no, queste vignette, diciamo che fanno ritornare in mente proprio. Il passato, che se anche relativamente vicino, magari alcuni momenti ce li siamo proprio scordati, no? E guardando le vignette, c'è accidenti, è vero, è successo questo, è successo quest'altro, mamma mia come stavo male in quel periodo, invece qui ho iniziato a respirare, no? Quindi è proprio una memoria, questi libri sono veramente una memoria. Quindi grazie, Claudio, del tuo lavoro. Se avete delle bellissime domande da fare, Claudio è pronto a rispondere. Claudio, lo dico io. Il mio compagno di classe, lui è quell'altro, due miei compagni di classe. Sì, un altro giorno, qualche anno fa. Ma ti ricordi che allora una pausa, pausa, non mi ricordo più quanto d'ora. Sì, sì. E lui stava là sulla lavagna, su un angolo, faceva qualcosa. Anche per professore, devi sempre. Sì, sì. Non me lo ricordo. E poi c'hai fatto. Faceva il cariponte con le vignette. Poi ci hai fatto noi tutti. Sì, sì, hai fatto tutta la classe. Tutta la classe. E ha colto anche lì. Ognuno, ognuno, o passioni o. Voi non sapete, ma dietro c'è la moglie di Tuzzi. Ah, ciao. Che era un altro mio compagno di classe. Mauro. Che era il più bravo della classe, no? Sì, sì, lui era il 60, Mario Poletta 59, si ricorda. Era il più bravo. Sì, lui studiava e serveva. Io no. Altro, sì, sì, sì. Comunque, no, insomma, le facevo sempre questi disegnetti, così mi ricordo anche i primi anni. Non ricordo, scusa, disegno tecnico. Noi per i tipi meccanici abbiamo fatto 4 anni, sì. Ma come andavi? Ah, io dico la verità, io sono perito meccanico, perché mio papà faceva l'operaio alla Montecatini, perché cioè, io ho fatto una scuola che non era, cioè nessuna passione, infatti io ho dimenticato tutto, e poi sono andato a fare un lavoro che dal punto di vista tecnico non aveva niente a che fare, che mi è piaciuto tantissimo. No, scusa, tu sei diventato perito meccanico. No, no, assolutamente. No, no, avevo, bastava un diploma, anche, no, anche i ragionieri no, tiravano su. Diplomato. Sì, ma non è. Quindi diamo atto. Cioè, io ho tre figli che hanno fatto scuole tecniche in università, tutta roba tecnica, che quando mi parla è come parlare arabo con me. Sì, ma non può. Perché io manco in matematica, proprio negato oltretutto, no? Sul seno di poi avrei dovuto fare qualche scuola artistica, artistica ma anche umanistica, sarebbe stato ma i nostri, perché tutta la, questa mancanza di istruzione è l'assento, perché lì vedi che dici ho fatto quello più di tanto, e me ne accorgo anche quando proprio vado con i figli, cioè andiamo a mangiare la pizza, ogni tanto parla tra di loro come parlassero arabo, io rimango là come un perocotto, perché proprio non. Ma sono contento lo stesso, cioè voglio dire, proprio ci mancherebbe altro per queste cose qua, no? Però dico, il disegno è così, io ho sempre disegnato piano, sì, insegnanti, qualche, ho iniziato a fare le prime caricature, ma allora le prime tante volte, anche dei miei colleghi, in tutti i posti dove sono andato a lavorare ho fatto caricature, le prime non erano fatte benissimo, però probabilmente avevano più pathos, come si usa dire, no? Che tante volte dipende, non è detto che il disegno perfetto sia quello che ti dà. Quindi, insomma, però adesso queste cose tecniche, siccome lavoro a dei momenti, mi chiamano, sono tre clienti, anche una testimone di Geova, che regolarmente mi chiede qualche disegno e regolarmente poi mi fa le proposte per andare a diventare una deffa. Ho detto, se non sei riuscita fino adesso lasciamo stare, perché insomma, no? Ecco. E poi ho avuto anche, vabbè, dei clienti, insomma, quello che è il capo della sanità, poi in alto Alice Zerser, là, e io ho fatto 2-3 caricature, ma proprio te le fai una caricatura? E com'è nata la cosa? Che un mio collega di lavoro era di chiusa come lui e mi ha detto fai una caricatura a lui, ok, e dopo lui mi ha contattato e io ho fatto qualche caricatura. È stato qualche personaggio che andava in pensione, dello anche l'assessore a suo tempo Taina, contattato, fatto. E quando la cosa più bella è quando faccio il disegno, poi qualcuno glielo incornicio anche se, e poi lo faccio vedere, glielo do. E io vedo subito, c'è sempre il timore, no? Che magari fai il disegno e lo porti. Che mi è successo in un altro campo di avere una, e invece quando vedi là e vedi che sono veramente contenti, oppure mi dico ah guarda, come ad esempio quello che ho fatto di Iron Man e la moglie, di così mi fa, ma mia moglie è entusiasta come l'hai fatta. Sono quelle cose là che veramente il coronamento, sì, e poi comunicano anche cose liete, diciamo così, no? Anche chi fa il matrimonio e quel momento, e tanti miei colleghi di lavoro che sono in pensione, che gli ho fatto il disegno sul tempo, quando li incontro anche dopo anni, dico: ah, il tuo disegno l'ho sempre attaccato là. E io ho raggiunto il mio scopo, che non è certo il business sui libri. Comunque alla base di tutto c'è una grande passione. Ma quella senza dubbio. Perché senza quella non si va da nessuna parte. E io non posso stare una settimana senza fare qualcosa. Mi viene sempre da fare qualcosa. Ma perché è come una droga, diciamo. Però è una droga piacevole. Certo. E dico la verità, andando anche in pensione, il problema più grosso per chi va in pensione è che non si è preparato prima, che magari anche lavori impegnativi, non voglio dire per... e di arrivare là e poi alzarsi la mattina e dire: oggi cosa faccio? Ed è una cosa drammatica, ma qua decide anche mia, oggi cosa faccio? Però, avendo tante cose da farvi, io oltre al disegno, ho la biblioteca che mi stressa alquanto, non so, ma insomma, per me è un problema, ho la parrocchia che anche lì mi stressa tanto, è così. La montagna. Vado in montagna, quella che quello mi stressa di meno, faccio fatica ma mi stresso di meno. Allora è bello anche poter, volevo imparare a suonare il pianoforte ma poi mi sono arrivato perché non riesco, non ho elasticità nelle mani, non ho pazienza, non sono come sono Masetti che invece con la batteria si è dato da fare. Per dire, uno deve avere tanti interessi, non uno solo, se avessi solo il disegno, dopo un mese che disegni mi sono anche rotto le scatole, no? Invece è bello avere tante cose. Allora la vita, diciamo che la pensione per me è bello, proprio mi ritengo una persona molto fortunata, proprio che non mi lamento troppo, ma che altro. In inglese come stiamo in inglese? In inglese l'ho cominciato, stavo andando bene, lì bisogna andare, che ne so, bisogna parlare, allora è più facile. Siamo scarsi come prima, anzi, io non ho mai imparato l'inglese, solo che adesso sto facendo su internet ci sono quei programmini che ti fanno, ho preso anche il gusto, perché da tutti i giorni, no, bisogna impegnarsi, non sono molto costante, solo nel disegno sono costante, resta un po' meno. Spero che siate contenti. Sì, grazie. Giornata, se qualcuno vuole il libro ce l'ho. A ricordo di questa giornata ho preparato dei segnalibri che vi darò a ognuno di voi. Dai tu? Dai tu uno per uno o vuoi che li distribuisco? Distribuisci. Però li scegliete a caso, perché pensiate. Sono di cinque cose di un dato dentro, dico. Allora, dovevo fare una cosa, avevo un'altra idea, ma invece ho fatto, siccome sarà per la prossima, mi arrangio io a fare queste cose. Bene, grazie mille, è una serata molto piacevole e divertente, proprio alleggerito.